Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sang la Bethlehem, let the mass and la Bethlehem, dalle campagne, le feroce soldat, in borghe nos dis nos compagne, arme citoyen. Formevo battaglion, marciò, marciò, che sangue in più, a breve non sia. Direttamente da Wembley, Oscar Giannino, intanto... Poco intonato stamattina. No, vabbè, io ti do un 9 per l'intonazione. Sì, anche se naturalmente, caro Alessandro, è successo quello che è successo e continua ad accadere. E continua ancora a succedere. Mentre noi vi parliamo, cari ascoltatori, voi magari state andando a lavorare, state portando i bambini a scuola, è in corso, da questa mattina, Radio 24 vi sta informando, un blitz a Saint-Denis e non è ancora finito, ci sono almeno 3 morti. Donna che si è fatta esplodere. Una donna che si sarebbe fatta esplodere con una cintura. Una donna kamikaze. Un altro uomo, probabilmente dei terroristi, e forse un passante. E ci sarebbe un altro terrorista asserragliato in questo appartamento. Capite come stiamo vivendo? E del resto ieri sera si è capito, tra quello che è avvenuto in Germania ad Hannover, la sospensione della partita Spagna-Belgio, insomma non si può credere come dopo la caduta delle torri che per un po' forse si sarebbe stato in pace, non mi pare proprio. Almeno fino a quando tutta questa cellula non verrà, come dire, silenziata, mettiamola così. Cari ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero a vostra disposizione già da adesso se volete chiamarci. Ovviamente parliamo soprattutto di Francia, di noi e loro, del terrorismo. Siamo in guerra, non siamo, siamo in guerra. Siamo in guerra, non siamo in guerra. Ecco, a me è incuriosito questo, il siamo spietati di Hollande e il soft power di Renzi, no? Cioè l'Italia non vuole neanche pronunciare, l'abbiamo detto ieri, la parola guerra. Sì. Noi siamo per il soft power. È evidente, secondo me, che l'Italia ha scelto di fare quasi niente, insomma, tranne che tutelarsi a casa propria con la sicurezza, perché c'è l'elevato timore che altrimenti succede qualche cosa. Cioè il calcolo è: siamo buoni. Non, come sempre, non dobbiamo avere un profilo di conflitto. Ecco. Posizione che nei giornali, per carità, tutti gli intellettuali liberi, guardate oggi su Repubblica, non lo so, Michael Walzer, eccetera, eccetera, sono gli ideali portabandiera di questa posizione, che il foglio invece sfotte in una maniera che non mi piace molto, perché parla dell'internazionale delle mutande, ecco, Corbyn, Grillo, sì, secondo sì, me bisognerebbe un po' moderare le parole, ecco, tutti quanti. Questo sì. Però insomma, se seguire Hollande e Putin addirittura paragona l'ISIS a Hitler, no? E quindi ci vuole una grande alleanza anti-Hitler. Beh, mettiamolo, ieri Putin ha confermato di essere rapidissimo, perché in poche ore, ordinando alla marina russa di cooperare pienamente con le forze navali francesi, ha di fatto ridicolizzato Obama, che parlava di ISIS come una rete di killer, no? Come se fosse così, basterebbe l'FBI. Certo. E quindi lui l'ha fatto scendere in campo a fianco della Francia, e evidenziando le spaccature dell'Europa. Che sono... Tra l'altro, Oscar, proprio una flash di agenzia adesso, sono 3 i terroristi morti a Saint-Denis, il blitz in corso, quindi sarebbero tutti e 3 morti i terroristi asserragliati, compresa la donna che si è fatta esplodere con la cintura di kamikaze, e 3 gli arrestati, quindi 3 morti e 3 arrestati, ci sarebbero anche 3 feriti tra i poliziotti. Non si capisce allora se sia sparito però il morto dei passanti, non è più un passante e morto. Pare che il bilancio sia ancora approssimativo. È ancora approssimativo. Tra l'altro sarebbe l'obiettivo di tutto questo, sarebbe quel Abdelhamid Abaoud, quello che noi pensavamo fosse in Siria, ridanciano, e a darci degli a idioti. E pare che sia in questo appartamento asserragliato. Ora vedremo tra poco, perché anche qui meglio non fidarsi fino a che le cose non sono. A proposito di stadi, ma tu sai cosa è successo ieri invece in Turchia? Molti ci hanno scritto oggi, guardate che c'è stata una polemica perché c'era la partita Turchia-Grecia, credo, e durante il minuto di silenzio ci sono stati i fischi che possiamo sentire. Molti fischi. Questo non è un minuto di silenzio. Questo non mi pare che sia un minuto di silenzio. E secondo le agenzie, alcuni che urlavano dagli spalti Allah è grande, Allah Akbar, che per carità è un'incitazione che si può fare, però in questo momento non chiaramente mi stupisco particolarmente che in Turchia ci siano molti fan. La Turchia di Erdogan è un'altra cosa rispetto a quella che conosciamo. Oltretutto io non condivido neanche l'eccesso anche qui di retorica di chi ha scritto. Per esempio Severgnini oggi dice che col coro della Marsigliese con cui abbiamo cominciato è la prova che l'Europa c'è ed è unita, è la prova che la gente poi in quella circostanza ha un po' di buon senso, ecco, come sente solidale. L'Europa politica, come si vede dalla risposta alla richiesta della Francia, non ha una linea. L'Europa unita è una finzione, l'Europa ha detto sì, ma non tanto sì perché c'è un trattato, un articolo specifico del trattato che impegna i paesi membri a dare il proprio sì apporto alla Francia. Sì, ma sì che cosa? Ieri c'era Gentiloni, Lilli Gruber gli ha chiesto 8,5, sì, ma quindi in che cosa diamo alla Francia? Non lo so, vediamo cosa ci chiede. Abbiamo dato il sì, ma poi chissà cosa faremo, aiuti alla Francia, ma quali aiuti? Boh, chi lo sa. Tant'è che ieri qualche sito di giornalisti diceva, ma cosa significa? Significa che altri membri dell'Unione Europea danno contingenti militari alla Francia e si mettono a studiare di Francia, come ovvio, no? Quindi stiamo parlando di fuffa. Del resto forse anche logistico, una delle cose magari che siamo abituati a trattare con più invece peso, cioè i giudizi dell'Unione Europea sui conti pubblici, anche quelli ieri sono diventati un po' fuffa, perché al governo italiano va un po' bene che sui giornali, visto il rilievo che ci sono sulle vicende terroristiche, non si noti molto che non è arrivata la promozione, come alla dicevi sua ieri, cioè che è stato tutto rinviato in primavera, alla però legge di stabilità. Detto questo, siccome dicono sì subito invece la legge di stabilità francese che c'ha un deficit nel 2016 del 3,4%, anche lì diventa tutto un po' ridicolo. Non so come devo dire, l'Europa è proprio. Sì, l'Unione Europea però ha detto la legge di stabilità la rivedremo. Ad aprile. Ha detto no ai mutasi, fai troppo deficit. Beh, questo ce l'avevano detto però anche prima. Cioè l'Europa però già prima diceva non bisogna togliere la tassa sulla casa, ma sul lavoro. Ha detto stavolta, ma no, Padoan aveva già contrattato, vedrete con Moscovici. Invece no, quindi il freno c'è. Sui giornali si vede pochissimo però questa cosa, è molto poco, come allora, giusto. Allora, beh, in questo momento ovviamente tutti sono presi, ma sì, è sicuramente giusto a parlare di altro, però questa cosa della legge di stabilità, c'è anche un particolare sulla legge di stabilità, sul canone della RAI. Hai visto? Vogliamo dirlo, lo so che in questo momento magari siete presi da altre cose, ma c'è effettivamente un ascoltatore che mi ha fatto notare questa cosa che ho detto in rassegna stampa, cioè il canone della RAI si pagherà in 10 mensilità, 10 rate mensilità. Però un ascoltatore, Roberto da Piacenza, ci dice, ma scusate, le bollette della luce sono bimestrali. Esatto. Che vuol dire che diventano mensili le bollette? Che il canone non entra in bolletta? Ma no, è la conferma che non sanno tecnicamente di cosa parlano. Ma no, di cosa parlano? Perché stabiliscono il principio, lo declinano, decideranno in 10 mesi, così se ne rendono conto meno gli italiani. Sì. Però non sanno sono niente 9, a quel punto sono dello 9. Strumento su cui stanno intervenendo. Care società che gestite il servizio elettrico, questi sono quelli che vi infilano il canone in bolletta. Ricordiamo com'è finita in Grecia, Italia oggi ricorda, anche in Grecia hanno messo il canone in bolletta per recuperare i soldi dell'evasione, finale. 2 miliardi di morosità a carico delle società elettriche. Cioè la gente non pagava più la bolletta. Certo. Non pagare il canone, ma allora voglio dire, ti mando il sindaco di Sedriano Movimento 5 Stelle, maresciallo. Ma è il primo segno del nuovo 5 Stelle senza il nome di Grillo, questo qua? No, non lo so, cioè, se non c'è il nome di Grillo, ma c'è scritto Ade. Ade cos'è? Beh, sì, l'Ade, l'inferno. L'inferno, ma è la sigla di Agenzia delle Entrate. Ah, Ade. L'Ade. L'Ade. L'Ade. L'Ade è quello. L'Ade, l'Ade. Marco da Genova ci chiama. Buongiorno, Marco. Signori, buongiorno. Intanto complimenti, vi ascolto tutte le mattine. Siete veramente continui così. Effervescenti. Io ho telefonato perché sostanzialmente sono amareggiato, ragazzi. Non è possibile, l'Unione Europea, allora sono anni che vogliamo fare l'Unione Europea, abbiamo una moneta comune ed è l'unica cosa che abbiamo, perché continuiamo ad avere tante lingue e non c'è più rouge che ci leghi veramente. Sì. Politica estera, ognuno sta andando per i fatti suoi, la Francia è partita, sta attaccando, noi non si sa che cosa facciamo, l'Inghilterra a volte è con noi, a volte non è con noi, la Germania sembra che sia alla finestra, a parte qualche proclama della Merkel. Io non so, ma è un'unione questa. Cioè, vede un po' di confusione sotto il cielo di Bruxelles, mettiamola così, Marco. Eh no, è quello che dicevamo, no, Oscar? Non... No, non è un'unione. Non abbiamo neanche un esercito europeo, quindi. Una finzione. Ognuno ha un'idea diversa su ciascuno dei paesi che sono in gioco in tutta questa vicenda: Siria, Iraq, Arabia Saudita, Turchia, Qatar. Ognuno ha contatti e contratti, per così dire, diversi. Sì. Sandro da Piacenza, buongiorno, Sandro. Buongiorno, scusatemi, volevo fare una voce un po' distorta. Io non sono d'accordo con questo francesismo che abbiamo adesso tutti, aiutare la Francia. Allora, la Francia, non so se siete a conoscenza, lo sapete sicuramente, sono stati sempre dei colonialisti. Sono andati negli anni 50 in Algeria, gli hanno fatto provare il socialismo reale, li hanno lasciati alla fame, quello che è successo. Poi volevo farvi notare una cosa scandalosa che è stata cancellata dai libri di storia. Sicuramente voi lo saprete. Conoscete Camp Tiaroye in Costa d'Avorio? I francesi, quando cacciarono i tedeschi dall'Africa, praticamente utilizzarono molti ivoriani per fare la guerra. Per non pagargli le pensioni dopo la fine della guerra, andarono in Camp Tiaroye e sterminarono gli ivoriani. Come mai è stato cancellato? No, mi scusi, Sandro, ma voglio dire, anche gli inglesi hanno avuto una grande storia di colonialismo, anche l'Italia, se affondiamo le radici un po' più là. Ma abbiamo usato le armi chimiche in Libia. Esatto, ma cosa dovremmo fare? Nel senso, per questo cancellare la solidarietà oggi per quello che accade? Abbiamo fatto i campi di concentramento contro i senussiti in Libia e ne abbiamo ammazzati uno su tre, forse è meglio che ce lo ricordiamo. Ma non solo, l'Etiopia, ecco. Voglio dire, però Sandro, quindi non so, concluda, cioè dove vogliamo arrivare? La storia bisogna è importante, la va studiata. Bisogna finirla di sfruttare questa gente per le armi e il petrolio e aiutarli effettivamente nei loro paesi, cercare di creare degli scambi commerciali buoni per tutti, cercare di aiutarli nei loro paesi. Se noi continuiamo a sfruttarli portandogli via il petrolio, l'oro, diamanti a questa gente, va bene, lei dice i risultati sono questi, insomma, mi sembra di capire. Le siamo un po' vittime del nostro passato e delle nostre politiche occidentali, è una teoria, caro Oscar, che hanno in molti. Sì. Io credo che l'ISIS è molto interessato a scambi commerciali, però no, detto questo, no, io non credo che, è ovvio, la storia è costellata di errori, tra l'altro la Francia non è andata negli anni 50, ci stava dall'Ottocento nel Nord Africa, però detto questo l'ISIS e Daesh è una cosa diversa, nasce da errori post 2001. Sì, ecco. E anche forse e sicuramente, se vogliamo fare l'analisi, lo finanziamo noi, l'abbiamo finanziato, ci sono sfuggiti di mano, l'abbiamo finanziato paesi sunniti in chiave antisciita e poi sono sfuggiti di mano, tutto giusto, però è una cosa appunto più recente rispetto. Direi di sì. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità perché tra qualche minuto avremo Staffan de Mistura. Chi è? È colui che è l'inviato dell'ONU in Siria. Cioè, e dopo che negli anni precedenti lo è stato in Iraq e in Afghanistan. Esatto. Quindi è un uomo che veramente. Sì, tra l'altro c'è questo tentativo che sembra un po' surreale di mettere le parti a ragionare in Siria entro fine anno, tra l'altro, deve fare, quindi in un mese e mezzo. Sta partendo per New York, sarà con noi prima di partire per New York, tra 5 minuti ci racconterà questa Mission Impossible. Insomma, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. E allora eccoci qua alle 8:38 minuti, caro Oscar Giannino. Certo, Alessandro, vogliamo dirlo, questo è stava a 800 metri dallo stadio ancora. Sì, sì, sì, questo, 800, stiamo, 800 metri il Blitz. Del Blitz di Saint-Denis, cioè, da sì, era 800 metri dallo stadio. Se è confermato che è lì, questo Abdul Hamad, com'è che si chiama? Abdelhamid Abaoud. Ecco, evviva. Allora, stiamo parlando del Blitz in corso a Saint-Denis, vediamo gli sviluppi, pare due arresti invece che tre, secondo alcune agenzie due arresti, secondo altri tre, però tre persone che si sono state uccise, tra cui una donna kamikaze. Allora, salutiamo Riyad, ci chiama da Prato. Riyad, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, dica. Riyad, allora, scusi, lei è originario di, immagino, straniero. Siria, sono... Siriano, siriano, cittadino italiano, sposato con una italiana con due figli, una figlia dell'età della povera Valeria, che questa notizia mi ha tagliato, mi ha spezzato il cuore, perché anch'io ho una figlia che studia all'estero e tutte le mattine io mando un buongiorno alla mia figlia e da stamattina mi sono promesso, preso una parola d'onore, diciamo, di mandare un buongiorno alla Valeria tutte le mattine sul suo Facebook. Due. E mi vorrei un pochino agganciare alla testata del dottor Del Pietro, bastardi musulmani. Dottor Milan... Bastardi islamici, per islamici, musulmani, islamici, scusi. Dottor Milan, è giusto scrivere bastardi siciliani per i quattro mafiosi cattivi che hanno assassinato il generale della Chiesa Falcone Borsellino? È giusto scrivere bastardi italiani per i quattro stupidi brigatisti che hanno fatto quello che hanno fatto? Due. Per l'ISIS, l'ISIS è una fabbrica che tutt'oggi in produzione continua, ha degli investitori che buttano tanti soldi, questi qui non rappresentano noi, perché basta guardarli fisicamente in faccia anche, come sono vestiti, le barbe lunghe, i capelli lunghi, questi non hanno una religione, hanno una ideologia, perché quello che stanno facendo in Siria a casa mia e quello che fanno in Iraq e quello che stanno facendo in tutto il mondo non è Islam questo qui, non noi non siamo questi. Beh, su questo Riyad ha messo tanti elementi sul tavolo. Io non avrei fatto quel titolo. Nemmeno io, lo dicemmo praticamente subito. Mi è toccato sabato mattina stesso a commentarlo e io ho detto chiaramente come la penso. Io penso che poi oltretutto bisogna aiutare a capire quando avvengono queste cose senza cavalcare l'emotività. E anche chi la pensa ha una posizione nettamente di destra, nettamente di sinistra, credo che, eccitando l'emotività e la generalizzazione delle contraddizioni radicali, non si faccia onore al proprio mestiere, ma questa è la mia opinione. Però anche è vero, Oscar, che da due giorni diciamo, questo anche per rispondere a Riyad, che far finta che la religione, esatto, non c'entri nulla, anche questo è sbagliato. Non rappresentano certamente l'Islam nel suo credo più puro, però agiscono secondo un'interpretazione dell'Islam e di uccidere i kafkir è, da che esiste l'Islam, una parte che nel tempo diventa a volte più rilevante, a volte meno rilevante, ma è consustanziale, c'è all'interno dell'Islam. È così. Allora, visto che parlava dalla Siria, noi abbiamo un rappresentante, tra l'altro italiano, diplomatico, rappresentante dell'ONU, inviato speciale per la Siria. Si tratta di Staffan De Mistura, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi, perché so che sta partendo proprio per andare forse all'ONU. Buongiorno De Mistura, grazie per essere qui. Buongiorno a voi due e a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi. Anche perché lei ha una missione, noi abbiamo definito una mission impossible. Cioè, è vero che lei entro fine anno deve cercare di portare le parti che sono in conflitto in Siria a parlarsi? Se sì, come si fa? Prima di tutto la missione rimane in teoria impossible, tanto è vero che due dei miei predecessori hanno ed è dovuto rinunciare, ma lo è meno impossible da quando abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo da tempo. Cosa? Che le nazioni che hanno un peso, un'influenza sull'una e l'altra parte si sedessero intorno a un tavolo. E quali sono in particolare? Stati Uniti e Russia, Iran e Saudi Arabia e poi chiaramente Turchia ed altri. Quindi i colloqui di Vienna. Possono, esattamente, quelli che hanno un'influenza su chi sta combattendo e anche quindi su chi potrebbe insieme combattere ISIS. In questo senso la missione è meno impossibile, perché era quello che era necessario. Finora stavano alla finestra. Ecco, ma parlarsi cosa vuol dire? Cioè, da qui a dicembre cosa succederà concretamente? Sappiamo che i tempi della diplomazia sono sempre più lunghi, non è che si possono ridurre. La realtà è la seguente. La realtà è la seguente. Tra adesso e dicembre si prepara da una parte l'opposizione, che è divisa ed è non unita, ma ha delle idee molto precise, e la parte del governo attuale, quello attuale che esiste, affinché in due stanze separate o nella stessa stanza, vedremo, possano cominciare a parlare di quello che sarà il futuro politico della Siria. Perché? Perché quello che stavamo sentendo prima, e il signore aveva ragione, quello che noi abbiamo nell'ISIS e del nazismo sotto copertura dell'Islam, ma in effetti del nazismo è nulla di più, sono dei folli nazisti che uccidono più islamici che in effetti di altre religioni. Ma una crisi, cioè l'attacco, la guerra all'ISIS si deve fare su due fronti, altrimenti non si vince. Il primo è chiaramente quello militare, altrimenti con loro non si negozia, ma l'altro è quello di risolvere la crisi politica siriana, cioè la guerra e il conflitto in Siria. Posso farle... E credo che quello che è avvenuto a Parigi, termino solo quello, sì, che è avvenuto a Parigi, quello che è avvenuto a Madrid, a Londra, a Tunisi, in Turchia, in Canada, in Australia, è un acceleratore affinché tutti capiscano che se non si affronta la crisi politica siriana non ci si può poi concentrare tutti assieme, ripeto, tutti assieme contro l'ISIS. Senta, siccome l'ISIS nasce anche per con i generali del partito di Saddam, che buttati fuori per errore dall'America e dall'Occidente dopo l'intervento militare dall'Iraq futuro, danno la spina dorsale in realtà organizzativa, militare, finanziaria anche all'ISIS o Daesh, come lo si voglia chiamare. Allora le chiedo, ma adesso lei pensa che a questi colloqui di Vienna le diverse parti in campo, prima le ha citate, siccome la Siria e l'Iraq sono al centro di uno scontro tra l'evidente fascia di allargamento verso il Mediterraneo dell'impostazione iraniana sciita, che paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati e la stessa Turchia, sia pure non proprio uniti ma convergenti, vogliono invece contenere, allora la domanda che le faccio è: Putin e la Russia presente sul campo oramai il pilastro vero che consente a queste due opposte concezioni delle aree di influenza del futuro nel Medio Oriente di avere una possibile sintesi? Cioè Putin è diventato in pochi mesi, come titolano alcuni giornali italiani, da paria a pivot, perché senza Putin in realtà a neanche quel tavolo di Vienna saremmo arrivati. È un po' così secondo lei? Vedi, ci sono stati due nuovi elementi che hanno prodotto, e la storia è fatta di questo, non soltanto di buone intenzioni, ma quello che viene chiamato la realpolitik. Due nuovi elementi che hanno prodotto un'accelerazione, quindi il volersi sedere intorno a un tavolo. L'uno, diciamo, il movimento, il massiccio di rifugiati siriani che non ne potevano più, hanno aspettato 5 anni e hanno cominciato ad arrivare a casa nostra, dovunque in Europa. E questo ha prodotto un interesse non a livello dei ministri della cooperazione o addirittura dei ministri degli esteri, ma dei capi di governo di tutta l'Europa, a dire questa è una crisi che va affrontata alle origini. Quindi un acceleratore. Il secondo è la decisione russa di intervenire militarmente. Ma questo ha prodotto anche un interesse diretto russo a trovare una soluzione rapida, perché una volta che si entra in questo meandro bisogna anche trovare una maniera di uscirne, affinché non diventi un futuro Afghanistan con delle colorazioni libiche somale. Però scusi, lei tutto Demistura ha aiutato. Certo, ma Demistura ha detto anche che il piano su cui combattere l'ISIS è anche militare. Dunque la Russia, e le chiedo anche la Francia, fa bene? Vede, combattere l'ISIS, ha fatto bene lei invece a correggere e chiamarlo Daesh, è il nome migliore per questo. Primo perché non amano quel nome e secondo perché ha una certa connotazione. Ora, per combattere Daesh bisogna ovviamente utilizzare i sistemi militari, loro non fanno altro che questo. Per vincere Daesh però c'è bisogno di una strategia complessiva, mi spiego. Sì. In Siria molte persone siriane, disperate dalla loro volontà, perché hanno avuto la moglie e la figlia, il fratello ucciso da una bomba a grappolo che è caduta da parte del governo, o perché sono stati coinvolti in questa lotta, diciamo, ed incrociata, cosa fanno? Accettano di entrare nell'Annusra o addirittura tollerare Daesh, perché pensano che non c'è un'alternativa tra Bashar al-Assad e Daesh. Non è così. Può esserci, ci deve essere un'alternativa differente. Ed è quello che Vienna propone: un governo rivisto, una nuova costituzione e una nuova elezione. Questo dà un orizzonte a coloro i quali in qualche maniera tollerano al-Nusra e Daesh perché sono completamente disperati. No, è chiaro, lei ci sta dicendo le bombe fine a se stessi, no, ci vuole una strategia, però in questo momento voglio dire gli attacchi militari di Russia e Francia evidentemente non sono da condannare, questo mi sembra che, cioè sono anche una parte di questa strategia se fatta in modo più completo. Beh, io lavoro per 42 anni nell'ONU, quindi non sono mai stato quello che dice che le bombe fanno bene, ma ci sono momenti in cui si risponde agli attacchi. No, come è avvenuto anche perché nei Balcani. Sì, noi continuiamo a insistere su quello, non per farla dire cose che lei non può dire, ma però l'accelerazione in realtà è correlata all'intensificazione di queste presenze e questi sforzi militari. Quando Obama, con un distacco anche un po' sorprendente nel tono, dice: ma in fondo Daesh è una rete di Hitler. E dice: noi no, noi stivali sul campo non li rimettiamo come Stati Uniti, abbiamo commesso errori in passato, non vogliamo ricommetterli. In realtà questa posizione americana in questi mesi non aveva portato un'accelerazione, cioè un isolazionismo che viene interpretato dalle parti medio orientali come vabbè, e allora ce la dobbiamo vedere noi. Ma secondo lei ci sarà uno sviluppo di questa posizione americana o resta isolazionista? La realtà è quella che abbiamo visto a Vienna. Lei forse avrà visto la foto ed è lì alla conferenza stampa e probabilmente anche durante l'inizio dell'incontro durato 7 ore. C'era John Kerry e c'era Sergei Lavrov a capotavola. Io ero con loro. Loro erano quelli che assieme hanno tirato avanti questa nuova iniziativa. Noi, come sempre, sosteniamo, aiutiamo, prendiamo i pezzi dopo, li mettiamo assieme. Ma la realtà è che John Kerry era una forza della natura che ha spinto insieme a Sergei Lavrov, col quale ha un rapporto professionalmente molto buono, affinché tutto questo diventasse non un'azione isolazionista da parte l'uno o dall'altro, ma qualcosa di comune. Poche parole. Ci sono momenti, e questo era un momento storico, in cui le nazioni del mondo si mettono d'accordo su ciò che possono essere dei punti comuni, mettendo da parte certe distinzioni, perché come nella vita privata le priorità prevalgono. Allora, noi la salutiamo e la ringraziamo. Certo, rimane un po' auguri. La Mission Impossible, perché 2 giorni fa Domenico Quirico ci diceva: ma vi immaginate di fare le elezioni in una città come Aleppo o come Raqqa? Ecco, lei ha questa missione, capisce, De Mistura, che c'è un po' di scetticismo come minimo. Posso rispondere a questo? Certo, chiaro che ci deve essere il scetticismo, abbiamo avuto molte delusioni in 5 anni. Ma lei, voi, noi, avremmo mai immaginato 2 mesi fa, con la questione ucraina e così via, e con le tensioni tra Russia e America, che li avremmo visti allo stesso tavolo insieme all'ONU nel dire le stesse cose? No, non avremmo immaginato 3 settimane fa, non 3 mesi fa, che nella stessa sala di riunione, piccola, francamente, c'era anche il ministro Gentiloni, quindi lo ha visto con i suoi occhi. Abbiamo avuto per 7 ore Arabia Saudita e Iran seduti e parlare. Mi colpisce più questo ancora, sì, che ancora più che Stati Uniti. Sì, ancora più questo. Noi la ringraziamo, Staffan De Mistura, grazie per essere stato con noi. Lei è l'inviato speciale dell'ONU per la Siria. E ovviamente in questa Mission Impossible noi documenteremo che succederà. Oscar, abbiamo 1 minuto e mezzo. Che dobbiamo dire? Che cosa vogliamo dire ancora? Beh, una cosa che mi ha colpito, una piccola vicenda, la cronaca lombarda, che però è legata a tutto questo. L'hai vista questa pizzeria di Varese? La pizzeria di Varese di un egiziano copto, quindi cristiano copto, bruciata per un crocifisso. Ah, questa no, e lui dice oggi l'ha riaperta e lui l'ha riaperta grazie alla Caritas. Ma perché è bruciata per il crocifisso? Perché alcuni dei suoi avventori, lui essendo copto, ma egiziano, musulmani, l'ha bruciata per il crocifisso, l'ha riaperta. Lo riappenda più grande. No, ma grazie ai contributi della Caritas, dice i leghisti erano venuti qui a darmi la solidarietà, ma non si sono più visti. Fotografia delle contraddizioni italiane, l'emotività, la difficoltà, pensa, per un egiziano cristiano copto di fronte agli suoi stessi connazionali qui, ma musulmani. Ecco, una piccola fotografia della provincia italiana che mi ha molto colpito. Effettivamente sì. Allora, ci fermiamo qui con la nostra redazione, come sempre, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia. Che ed ci era Sant'Odone, fondatore Odone. Sant' apostrofo Odone, cioè fondatore di Cluny, quindi uno dei più grandi movimenti culturali ecclesiali della storia del cristianesimo cattolico. E allora, a domani, caro Oscar. A domani, Alessandro.